Italia sono state prese delle decisioni francamente che hanno sacrificato una generazione, in particolare quelle degli attuali giovani, a vantaggio di posizioni di rendita. Insomma, basti pensare allo scandalo delle baby pensioni, tanto per citarne una. È un convegno di giovani per i giovani, in cui ci saranno tante testimonianze di eccellenze del mondo dell'impresa, della società civile e addirittura delle forze armate. E poi ci aspettiamo che attraverso questo confronto possano emergere delle soluzioni immediate a costo zero per il nostro paese e soprattutto per i molti giovani che in questo momento non vedono un futuro roseo.